highest emergency? Yeah, can you please send rescue? I think I'm having an overdose at school with my wife. Overdose of what? Spazio Estate Viaggi, nona puntata. Da El Alto, Bolivia, a Cusco, Perù. Y estamos conectados con Espacio Estate. Yes, baby. No puedo caer, pero sé volar. Frecuencia al 100, viene a cuestionar. Y dime quién es, a quién tú amas. La puti reina que te hizo soñar. No me invites si después no me aguantan. No me miren con esas caras largas. Si te llega mi verdad, entonces no es casualidad que tu vida a ti te cueste una carga. Un caro saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Estate Viaggi e della radio. Nona, nonché penultima puntata di questo format estivo, firmato Don Pierce, che potete riascoltare sul sito radioondadurto.org e su mixcloud.com/Don Pierce. Questa puntata è stata registrata negli studi di Radio Onda d'Urto a Brescia. In onda per i prossimi 90 minuti, durante i quali, come di consueto, vi intratterremo con le tre parti che compongono questo programma. Il racconto di un lungo viaggio in bici in Sud America, un'intervista ad una realtà di movimento raccolta durante il viaggio e la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina, a cura di Mirko. State ascoltando Al 100 di Señorita Chu. E dopo questo pezzo, qualche messaggino che ci è arrivato in settimana prima di presentarvi il sommario di questa penultima puntata. Ciao Pera, scusa il vocale, ti volevo dire che mi sono messa in pari con le puntate, praticamente abbiamo ascoltato per le vie della Norvegia i tuoi racconti dall'America Latina ed era subito Latin Norway. Beh, innanzitutto i complimenti perché veramente il tuo viaggio fa emozionare, la doppiatrice è bravissima, la scelta musicale un sogno, Mirko bravissimo, anche le interviste molto interessanti. Il mio commento è che mi stupisce che di tutti i temi sociali tu da uomo scelga il tema sociale del femminismo, per cui ascoltando le puntate mi sarebbe piaciuto avere un'ultima puntata di intervista al giornalista in cui appunto io ti chiederei questo, cioè nel senso, da tante parole del femminismo come uomo, nel senso non è solo, immagino, la superficialità di non fare male alle donne, ma tu avrai tutto un vissuto che avrai maturato anche da tutto questo lotta vera per i diritti delle donne. Siccome il femminismo è un po' un tema spinoso, perché non vedo come una società possa essere, cioè dei diritti per le donne, non, cioè devono per forza passare anche dall'educazione dell'uomo in quanto maschio. Quindi tu da uomo ti chiederei perché hai questa sensibilità verso la violenza contro le donne e di tutto questo che cosa hai maturato, non come giornalista ma come uomo. Vabbè, aspetto le altre puntate, saluti, ciao, un bacio. ascolta, una curiosità. Sto ascoltando la sesta puntata. Dimmelo prima che arrivo alla fine, perché dopo te l'avrei detto di sicuro. La voce che ti traduce dallo spagnolo all'italiano, ho detto mamma. Grazie per avermi girato il link. Sai una cosa bella che non ti ho detto, che mi è piaciuta, l'ho notata nelle varie puntate, anche qua nell'ultima. Quando fai le interviste lasci un bel pezzettino di parole in lingua originaria, diciamo in spagnolo, e mi piace molto sentire le persone che intervisti, sentire i vari pezzettini in lingua spagnola. Ecco, bello, bello, perché è difficile anche quando che ti ascolti i programmi in giro tradotti, ti senti proprio un spezzone, ma una roba minima minima, mentre ti te la lasci andare un po' di più. Bello, bravo, ciao. Grazie per i vostri messaggi. Continuate a scriverci fino all'ultimo minuto di Spazio Estate Viaggi su Facebook e Instagram donpairs.it. Donpairs.it. Sulle note di Sara Hebe, tra qualche istante vi presenteremo il sommario della puntata di oggi. Sommario della nona puntata di Spazio Estate Viaggi. In questo episodio seguiremo Giacomo e la sua bicicletta mentre attraversano la frontiera tra Bolivia e Perù, ai bordi del lago Titicaca, uno dei laghi navigabili più grandi e più alti del mondo, che si trova ad un'altitudine media di 3.800 metri. Giacomo arriverà a Cusco con non poche difficoltà anche a causa del paro, lo sciopero caratterizzato dai blocchi stradali dei contadini nei piccoli paesini delle Ande peruviane. E proprio da Cusco, nella seconda parte del programma, vi proporremo l'intervista a Carmen Cecilia Gil Cuba, fondatrice e direttrice del collettivo ambientalista Dos Ovejas, Due Pecore. Parleremo di sensibilizzazione verso nuove pratiche di consumo, riforestazione, gestione dei rifiuti e delle problematiche ambientali legate al settore della moda rapida a basso costo, la cosiddetta fast fashion. Infine, non mancherà, nella terza parte di questo programma, la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. oggi Mirko ci parlerà di Harmonia Somers, una delle scrittrici cosiddette strane della letteratura uruguaya. Educatrice e pedagoga, ha lasciato il suo lavoro all'età di 57 anni per dedicarsi alla scrittura. Le sue opere mescolano erotismo e inquietudine metafisica, un radicato femminismo a una profonda ricerca formale. Il monumentale romanzo Solo los elefantes encuentran mandragoras è la sua opera testamento. Rimanete all'ascolto di queste frequenze antagoniste, poiché a brevissimo inizia la prima parte di Spazio Estate Viaggi. Nell'ultima puntata di Spazio Estate Viaggi vi ho raccontato di buona parte delle mie pedalate sulle Ande boliviane, dei durissimi dislivelli e dei miei problemi con l'ossigeno a oltre 4.000 metri. Vi ho raccontato delle monumentali montagne con picchi di oltre 6.000 metri, di Maradona, dei cani che ho incontrato durante il viaggio. Inoltre vi ho raccontato di La Paz, della Casa di Mujeres Creando e di Maria Galindo, icona del femminismo boliviano. Vi ho anche fatto sentire le voci degli attivisti e delle attiviste di Huaynatambo, organizzazione di El Alto che promuove attività culturali e sociali a forte orientamento politico. Il mio racconto di oggi riprende proprio da El Alto, città gemella di La Paz, a 4.150 metri sul livello del mare. Sono Giacomo, ciclo viaggiatore sempre più sperimentato. Sono partito in bicicletta da Buenos Aires a inizio febbraio, senza sapere dove sarei arrivato. Dopo meno di due mesi mi sono ritrovato a La Paz, dove, dopo essermi riposato per una decina di giorni, ho deciso di proseguire il mio viaggio almeno fino a Lima, Perù. Mi mancano all'incirca 1800 km che percorrerò in un tempo record di 18 giorni, pedalando all'incirca per 100 km ogni giorno. de vos según mi Dios, han de llorar por tu amor. Debo ser un sonso de llorar por tu il primo lungo viaggio in bici della mia vita. Prima di partire, tra i vari preparativi del viaggio, che non vi ho ancora raccontato, c'è stato un discreto ma costante allenamento durato alcuni mesi. Ho cercato di fare un'oretta di sport almeno 3 o 4 volte a settimana, alternando la corsa, la bicicletta, la piscina e la palestra. In realtà però il vero allenamento per affrontare i temibilissimi dislivelli delle montagne della cordigliera andina l'ho fatto pedalando nelle immense pianure argentine durante i primi 1500 chilometri prima di salire sulle montagne. Ora mi trovo alla Paz. Arrivare fin qui è stato molto duro. Le montagne della Bolivia sono impressionanti. Pedalo sempre in alta quota, mediamente a circa 3700 metri. Il problema è che, escluso qualche altipiano, la strada è caratterizzata da continui, ripidi e faticosissimi saliscendi. È così che in tappe di anche solo 50 km mi ritrovo a salire fino a 4700 metri, per poi riscendere a 3500, per poi risalire a 4000, eccetera eccetera. Le tappe, scelte di giorno in giorno, non erano mai composte dallo stesso numero di chilometri. Alcuni giorni pedalavo appena 40 chilometri, invece tappe più lunghe mi hanno portato a superare anche i 100 chilometri. La maggior parte delle strade che percorro in Bolivia sono strade nazionali, poco trafficate. Sono perfettamente asfaltate, grazie agli importanti investimenti infrastrutturali dei governi Morales e del movimento al socialismo. Anche le connessioni ad internet funzionano molto bene, infatti mi distraggo spesso ascoltando la radio con il piccolo autoparlante collegato al telefono che ho installato sul manubrio della bici. Mi colpiscono inoltre le scuole. La Bolivia è un paese a basso reddito. L'ho capito subito, scovando le differenze, dopo aver passato la frontiera con l'Argentina. Le scuole pubbliche, tuttavia, sono edifici sempre in ottimo stato. I muri, i tetti, i giardini e i campi da gioco all'interno delle strutture scolastiche sono di ottima qualità, nuovi o restaurati di recente. Non so bene come sia la qualità dell'istruzione, nemmeno se all'interno delle brillanti strutture siano presenti materiali didattici e pedagogici adatti ad un apprendimento efficace. Certo però che, pensando allo stato indegno di alcune scuole pubbliche che ho visto in Italia e in altri paesi decisamente più ricchi, c'è poco da invidiare. Viaggiare in bici è fantastico perché i paesaggi che si osservano scorrono lentamente. Si ha tempo per i dettagli, per scoprire le diversità attraverso le piccole cose. In questo modo mi saltano all'occhio anche le case popolari, molte già abitate, alcune in costruzione. Si tratta di case singole che noto soprattutto in piccoli villaggi sperduti. Le noto poiché sono molto belle, colorate di blu e bianco, contrastano con le altre case, talvolta fatiscenti e costruite con materiali poveri. mi hanno raccontato che l'edilizia pubblica viene rafforzata specialmente nelle aree più depresse del paese, che tendono a spopolarsi. Le famiglie meno abbienti ricevono la casa a condizione di mandare i figli a scuola. Certo, non mancano casi di clientelismo e corruzione che influiscono pesantemente su quasi tutti i paesi del Sud America. Però l'edilizia popolare in Bolivia è sviluppata. Il governo investe nella vita della fascia di cittadinanza più povera, implementando politiche con un approccio dal basso. Pedalando tra strade semideserte di montagna, incontro spesso i murales che celebrano Evo Morales. La gente che incontro nei paesini mi racconta spesso, orgogliosamente, dei grandi progressi che la Bolivia ha fatto con i governi Morales, specialmente il primo. Una misura che reputo straordinariamente importante è l'aver trasformato la Bolivia da una repubblica ad uno stato plurinazionale. La creazione di questa nuova forma di Stato ha significato la fine, almeno sulla carta, del potere centralizzato, composto esclusivamente da caste bianche o bianco o meticce. Infatti Morales è stato il primo presidente indigeno di origini Uru Aymara a governare il paese. Il suo governo ha voluto rafforzare le autonomie locali e promuovere le lingue delle minoranze, ufficializzandole ben 39. Si sono volute queste politiche per far fronte all'omologante spinta della globalizzazione, ma anche per ridare dignità ed importanza a comunità indigene che sono state schiavizzate almeno dai tempi della colonizzazione spagnola. Per cercare di unire un popolo estremamente chiuso e diviso, rafforzando e valorizzando le differenze all'interno di un unico contenitore nazionale. Mi piace questa Bolivia. Non ho ancora realizzato che sarà proprio lei a mancarmi immensamente e più di tutto alla fine di questo viaggio, poiché mi ha lasciato con gli interrogativi più intriganti, perché è stato il paese più difficile, non solo da pedalare, ma soprattutto da capire. La Bolivia mi ha stampato nei ricordi la determinazione della sua gente, in particolare degli attivisti e delle attiviste che ho incontrato. Ho avuto l'impressione di conoscere un popolo coraggioso, forte, dall'animo puro, semplice e ultra determinato. Riparto dalla Paz dopo 11 giorni di riposo e interviste. Carico la bicicletta sul teleferico, la funicolare della città, altra straordinaria opera pubblica del governo del movimento al socialismo. In circa 30 minuti mi fa viaggiare per circa una decina di chilometri, superando gli oltre 600 metri di dislivello tra la Paz e l'alto. È fantastico mi teleferico, che si chiama così anche perché è interamente di proprietà pubblica, è di tutti e di tutte. La frontiera con il Perù dista ormai solo 160 km, che percorro in due giorni lungo il lago Titicaca. L'immensa riserva di acqua dolce a 3.800 metri sul livello del mare è grande oltre 20 volte il lago di Garda. Si divide tra Bolivia e Perù. La sua profondità media è di oltre 100 metri, il che significa che il bacino idrografico è di circa 50.000 km quadrati. Montagne di acqua che ho sempre visto abbondare da quando ho iniziato la salita della cordigliera. Il lago Titicaca è un'altra bellezza indimenticabile del mio viaggio. Mi regala un paio di tramonti radiosi e colmi di sfumature multicolore. Una notte in tenda con il profumo del lago, la serenità degli animali acquatici diurni e notturni che lo abitano, un risveglio da leone in un piccolo lembo di terra che entra nel lago. Mi dispiace lasciarlo, ma devo andare, anche questa volta, per proseguire il mio viaggio. Succede poi che sbaglio frontiera. Ho scelto una strada facile, lungo lago, senza troppi dislivelli. C'è una piccola dogana, l'avevo vista sulla carta, presidiata solo dalla polizia peruviana, che però non mi fa passare. Non c'è l'ufficio visti che autorizzi il mio soggiorno in Perù. Così devo risalire la montagna e prendere l'altra strada, che, passando per Copacabana, mi conduce all'altra frontiera. La deviazione mi costa fiumi di sudore, una grande fatica, anche perché sono giunto all'ultimo giorno di visto della Bolivia, 29esimo giorno. Mi devo dare una mossa, devo assolutamente passare la frontiera oggi, altrimenti mi ritroverei illegale in Bolivia e probabilmente dovrei pagare qualche multa. Accelero, la salita è durissima, ma arrivo puntuale alla frontiera. Anzi, un'ora prima della chiusura serale. La morsa sulle frontiere con la scusa del Covid si è allentata. I controlli sono minori e finalmente sono in Perù. Continuo la strada lungo il lago Titicaca fino a Puno. Poi inizio ad allontanarmi dall'acqua e mi ritrovo su un altipiano paludoso fatto di pascoli alternati a cittadine un po' industrializzate e un po' insignificanti. Poi ricominciano le salite. Viaggio in direzione Cusco, capitale storica del paese, patrimonio dell'umanità e culla della cultura inca. Mi trovo ancora ad oltre 4.000 metri, strade poco trafficate, montagne brulle ma spettacolari, pascoli, lama e verde ovunque. Un altro luogo spettacolare che ricordo con affetto si chiama Aguas Caliente. Ci sono centinaia di posti in Sud America che si chiamano così e normalmente ospitano sorgenti di acqua termale. Sono appena entrato nel dipartimento di Cusco, passando per il passo La Raya, 4.338 metri. Mi fermo in un luogo meraviglioso. Praticamente deserto, con circa un euro, ho accesso a una ventina di vasche e piscine con acqua termale all'aria aperta, in mezzo a imponenti montagne. La struttura, di proprietà comunale, è aperta giorno e notte. Posso piantare la tenda, ma non c'è nessun negozio, ristorante o bar nei dintorni. Fortunatamente, ho anche tutto l'occorrente per prepararmi un'abbondante cena. Oltre 300 grammi di pasta condita con sardine, cipolle e pomodori. Quasi mi addormento infilato in una vasca di acqua bollente, guardando le stelle e quando la temperatura esterna si avvicina allo zero, io sto sudando. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. L'indomani non vorrei ripartire, ma non è la prima volta che mi capita. La voglia di scoprire luoghi ancora più magici però prevale, così mi rimetto in sella e via, di nuovo in strada. Percorro appena 5 o 6 chilometri e nei pressi del primo paese trovo un blocco stradale. Un piccolo gruppo di manifestanti, gente del villaggio, paesani, agricoltori, hanno bloccato la strada principale con dei grossi tronchi di legno e delle pietre. Con la bici potrei passare, ma i manifestanti me lo impediscono. Mi dicono che oggi è giornata di sciopero, il cosiddetto paro, che coinvolge tutte le strade principali del dipartimento di Cusco. I manifestanti, che mi bloccano il passaggio, mi invitano ad ascoltare le loro voci, così mi siedo e assisto interessato al presidio che si svolge in mezzo alla strada. Capisco che il problema grosso è l'aumento del prezzo del gas, che ha fatto lievitare i prezzi di tutti i beni, a partire dai generi alimentari. Queste regioni montane del sud del Perù non sono proprio prospere. I contadini e le popolazioni locali non vivono nel lusso, tutt'altro. Per esempio, nessuno ha riscaldamento a casa e in questi luoghi l'inverno è rigido. Le temperature notturne, infatti, arrivano tranquillamente a meno 20. La gente non si sposta moltissimo dai villaggi. Poche famiglie possiedono l'automobile. Si vive di poca agricoltura, qualche allevamento e micro commerci. L'aumento dei prezzi è quindi devastante in questo tipo di villaggi, la cui economia è comunque in qualche modo legata a quella nazionale ed internazionale. I manifestanti chiedono le dimissioni di tutti i membri del congresso, cantando "El pueblo unido, jamás será vencido". Ne sono assolutamente convinto anch'io. Cosa possono fare i governi quando il popolo è unito e si arrabbia? Esprimo quindi la mia totale solidarietà e aspetto il momento in cui i manifestanti mi lasceranno passare. Dopo una mezz'oretta mi accordano il passaggio, ma solo io, perché sono in bici. La lunga colonna di auto e camion che si è formata sulla strada nazionale rimarrà bloccata fino a fine giornata, quando, con l'arrivare della sera, i manifestanti sgombereranno la strada. Quella giornata di paro me la ricordo molto bene. Trovo infatti 15 posti di blocco in 70 km, praticamente uno per ogni villaggio. Non c'è modo di passare, se non parlare con le persone. Appena mi vedono da lontano, pedalando, mi gridano «Oggi giornata di sciopero, da qui non si passa!». Giunto però alle barriere che bloccano la strada, faccia a faccia con il presidio, sfoggio un gran sorriso. Rispondo a domande tipo «Chi sei? Da dove vieni? Cosa fai?» e soprattutto «Sei d'accordo con il paro?». Rispondo di sì, perché sono davvero convinto che loro abbiano ragione. Certo che appoggio questo sciopero. È così che tutti mi lasceranno passare, ma solo dopo 15-20 minuti di domande. I manifestanti in alcuni villaggi sono proprio simpatici. Umorismo tagliente, belle chiacchiere e talvolta mi viene offerta della frutta o del cibo dal presidio. È una giornata molto interessante, anche se per percorrere 70 km ci metto molto più del previsto. Verso le 18 tutto si smobilita, ricominciano a circolare auto e camion, infatti la strada è meno bella di prima. Arrivo a Cusco dopo 8 giorni di pedalate ininterrotti e mi fermo 5 giorni. I primi due in un bel hotel che qualcuno che non conosco ha pagato per me. Infatti un amico del mio amico argentino Bruno, di Cusco, è fuori città, ma non mi può ospitare. Contatta però un albergo che, da quanto ho capito, gli deve dei soldi. e così approfitto di un hotel con abbondante colazione mai visto durante tutto il viaggio. Appena sveglio mi pappo almeno 4-5 panini con prosciutto e formaggio, uova, yogurt, cereali, cioccolato, 3 o 4 fette di torta e un paio di caffè, di cui il Perù è eccellente produttore. Dopo due notti in hotel sono ancora fisicamente molto stanco. Mi devo fermare inoltre qualche giorno in più per le interviste. Un'amica da Bruxelles mi mette in contatto con Amilcar, cuschegno, con il quale aveva lavorato ad Haiti molto tempo fa. È così che conosco un altro bel personaggio con il quale scatterà un'interessante amicizia. Mi ospita tre notti a casa sua. Con sua moglie e suo figlio mi accompagna a visitare le bellezze nei dintorni di questa città. Evito Machu Picchu, troppo affollato, costosissimo e per di più in concessione ad un imprenditore della destra peruviana. Con Amilcar visito comunque delle splendide rovine Inca appena fuori Cusco, poi il Valle Sagrado, poi il paesaggio lunare delle saline di Maras, dove si estrae sale a 3500 metri di altitudine. L'ospitalità peruviana mi sta decisamente sorprendendo. La famiglia del mio amico non mi permette di pagare nulla. Solo una volta riesco a fare la spesa con la quale gli preparerò una golosa pasta al forno. L'esperienza nell'antica capitale si conclude con due interviste presso delle radio che mi hanno invitato a raccontare la mia esperienza. Transporte y la seguridad vial, y estamos acompañados de un personaje de lujo en el programa. No es tan, digamos, común entrevistar a alguien no entendido en el tema del transporte sostenible. Está con nosotros en estudio de Superstar Noticias el señor Giacomo Corticelli. Hola, él es, buenos días. ¿No? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Él es italiano-belga, ¿no? Tiene doble nacionalidad y está con nosotros. Primero lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Giacomo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, estoy contento de estar en Cusco. Me gusta mucho esta ciudad. ¿Cuándo llegaste, Giacomo? Llegué a miércoles. Miércoles, sí. Miércoles, ¿no? Y hemos estado con... Feminine Hi-Fi. Omega Vibration, Sapalo Nation. Femina, femina, femina, femina ganja. Femina, femina, femina marijuana. Femina, femina, femina, femina ganja. Femina, femina. Oltre ad approfittare delle bellezze della città e della zona, raccolgo anche due interviste decisamente interessanti. La prima l'ascolterete tra poco. Intanto cominciamo a mettere insieme il materiale raccolto finora. Ho voluto intervistare alcune realtà di movimento che ho incontrato durante il mio viaggio. Non ho fatto una ricerca scientifica, piuttosto una selezione di organizzazioni il cui lavoro mi pareva particolarmente interessante e innovativo da raccontare. Volevo trasmettere il lavoro di attivisti e attiviste che, dal Sud America, lavorano su tematiche affini a quelle trattate su queste frequenze, nella speranza di trarne ispirazione. Mi sono concentrato su organizzazioni che lavorano sull'ambiente, che praticano l'autogestione, che diffondono la cultura dal basso, che si occupano di diritti, specialmente quelli delle donne. Un'amica mi ha poi chiesto, stupita, perché tra tutti i temi sociali mi sono focalizzato particolarmente sul femminismo. Innanzitutto non mi sono concentrato sulle teorie, ma ho voluto raccontare le pratiche. Senza nessuna pretesa di essere esaustivo o di confrontare dati, ho semplicemente seguito i miei interessi e la mia sensibilità. Volevo imparare, conoscendo altre realtà. il discorso che ho portato avanti è certamente pensato per arginare la dilagante violenza verso il genere femminile che caratterizza troppe società in numerosissime parti del mondo, ma non è solo questo. Il femminismo è un tema spinoso e lavorarci è molto difficile. Chi lo tratta rischia costantemente di essere attaccato o attaccata, indipendentemente dal taglio e dalle parole utilizzate. Come giornalista sono andato alla ricerca di storie da raccontare, senza nessuna pretesa di dare lezioni o consigli. Ho cercato soprattutto di fare delle domande, lasciando ampio spazio per le risposte, ma senza giudicarle mai. Come uomo, invece, ho semplicemente cercato di istruire me stesso per essere migliore. Ho fatto questo lavoro principalmente per me. L'ho fatto perché penso che i diritti degli altri sono anche i miei. Se il mondo va al contrario di come la penso io, prima o poi ne subirò le conseguenze, anche se credevo che quei diritti riguardassero esclusivamente gli altri, altre persone. Chi ha un briciolo di sensibilità e di intelligenza, anche se nel passato ha fatto degli errori, perché siamo sempre composti anche delle nostre contraddizioni, capisce senz'altro che i diritti sono tutti collegati ed è necessario difenderli in toto, non singolarmente, in base alle nostre preferenze e interessi. Credo inoltre che i diritti delle donne siano strettamente connessi con l'ambiente, parte integrante di un sistema interconnesso che sta impazzendo. Se come uomo non imparo innanzitutto a rispettare me stesso, a migliorarmi, non potrò certo comportarmi bene con gli altri, con le altre, e quindi causerò danni all'ambiente. Voglio soprattutto migliorare la mia persona, per poi comportarmi meglio in coppia e quindi per vivere meglio in gruppo, dunque migliorare la società nella quale opero. Mi pare sia urgente ripartire da noi stessi, rafforzarci. Così potremo implementare i rapporti con gli altri, con le altre. E poi diventeremo più forti, quindi capaci di costruire una società migliore. Credo che in questo mondo diviso, traboccante di violenza e di mancanza di rispetto, di diritti, sia fondamentale costruire se stessi in primis. Migliorando la nostra persona, si miglioreranno, penso, anche gli altri e l'ambiente in cui viviamo. Voglio rafforzare me stesso per appropriarmi fino in fondo dei miei diritti, che sono quelli di tutti, di tutte, di tutto. Ecco perché ho deciso di lavorare su queste tematiche. Dopo questa serie di considerazioni, non esaustive, non esatte, non complete e dettate dai tempi stretti delle trasmissioni radiofoniche, vi lascio con la prima intervista che ho registrato a Cusco, in Perù. A brevissimo sentirete le voci di Carmen Cecilia Gil Cuba, fondatrice del collettivo ambientalista Dos Ovejas. Restate quindi all'ascolto di Spazio Estate Viaggi su Radio Onda d'Urto. Estamos con Cecilia Gil Cuba dell'organización Dos Ovejas. Primero quiero pedirle que se presente brevemente, por favor. Bueno, gracias Giacomo. Mi nombre es Carmen Cecilia Gil Cuba. Grazie Giacomo. Il mio nome è Carmen Cecilia Gil Cuba. Sono la fondatrice del collettivo ambientale Dos Ovejas E prima di tutto permettimi di ringraziare Radio Onda d'Urto, che si è interessata al nostro lavoro che realizziamo qui nella città di Cuzco in Perù. Quando nació Dos Ovejas? Quando è nata Dos Ovejas, per quali ragioni o esigenze specifiche, chi la fonda e a chi si ispirano le sue attività? In chi si ispira su attività? Grazie. Sì, è una storia un pochito larga, però déjame commentarti. Dos Ovejas nasce in Lima, nella capitale del Perù. Grazie per la domanda. È una storia un po' lunga, ma lascia che ti racconti. Dos Ovejas nasce a Lima, la capitale del Perù, quando io stavo lavorando nella municipalità distrettuale del Rimac nell'area ambientale. Nasce in collaborazione con un amico che pure lavorava nell'area ambientale. Il nostro principale obiettivo era arrivare a più persone con il tema dell'ambiente, sensibilizzare perché la gente realizzi un'adeguata separazione dei residui nelle proprie case, e per questo abbiamo realizzato con i nostri riciclatori, con volontari che lavoravano con noi in ufficio, una serie di strategie per arrivare al maggior numero di persone nel distretto. In questo modo arriviamo a un contatto con associazioni di quartiere, con scuole, organizzazioni sociali di base, associazioni di madri, presidi sanitari. Cercavamo diversi spazi perché la gente ci potesse ascoltare riguardo l'importanza della gestione dei residui solidi e sull'importanza di salvaguardare il fiume, perché stavamo sulla riva del fiume Lima, che è il fiume che fornisce l'acqua di Acqua Lima. Allora ci siamo resi conto che c'era un vuoto, perché stavamo arrivando a tutte le organizzazioni e, come si sa, la forza di una persona è far parte di un'organizzazione. E quando fai parte di un'organizzazione risulta più facile avere accesso a certo tipo di informazione, che sia la parrocchia, la municipalità, il commissariato, a cercarti per offrirti conferenze, per sensibilizzare. Allora a quel punto ci siamo chiesti cosa succede con quelle persone che non fanno parte di un'organizzazione, che non vanno a scuola, che non stanno studiando e che però continuano ad essere generatori di residui solidi quotidianamente. In quel momento un peruviano produceva più di mezzo chilo di residui solidi al giorno. Così, cercando più spazio dove poter arrivare con il nostro messaggio ambientale, ci viene in mente che avremmo potuto salire sugli autobus, perché sono il posto pubblico per eccellenza, insieme alle piazze dove la gente si siede un momento. E lì la gente può ascoltare qualcuno che parla. E allora decidiamo di salire sugli autobus e iniziamo a parlare alla gente. Ci attaccavamo al corrimano, iniziavamo a parlare di residui solidi, la bottiglia, la buccia, per favore, e andavamo da una parte all'altra del distretto coi volontari. Mi ricorderò sempre di questa esperienza, perché in questo modo siamo potuti arrivare alla gente che non era organizzata e riuscivamo a sensibilizzare la gente. La gente ci chiedeva: però dove la butto la mia bottiglia se non c'è un cassonetto? E allora il controllore, il conduttore iniziavano a prestarci attenzione, e credo che in quel breve spazio di tempo, sì, riuscivamo a svegliare la coscienza nelle persone. Decisamente avevamo bisogno di molto più lavoro, più attività. In ogni caso tornavamo a casa gratificati per aver raggiunto spazi a cui nessuno era ancora arrivato. È così che nasce Dos Ovejas, con un mio amico che si chiama Gianmarco. Con lui decidiamo di creare questa pagina, innanzitutto con l'intenzione di diffondere informazioni ambientali, che era il nostro primo obiettivo, però poi, grazie alla pandemia e visto che io ero tornata a Cuzco, Dos Ovejas inizia ad acquisire importanza, perché iniziamo ad articolarci con altre organizzazioni ambientali di Cuzco e non solo ambientali, iniziamo ad articolarci con imprese private dedicate al tema dell'ambiente, con il governo locale. Ed è così che Dos Ovejas è già riconosciuto nella rete ambientale municipale. Abbiamo fatto conoscenza con scuole, associazioni di imprenditori, organizzazioni che si occupano di lavoro sociale come tema vicino a quello dell'ambiente, come un tutto olistico. Ecco, ci siamo conosciuti e articolati con una serie di attori a livello locale, e questo ci dà soddisfazione, perché sappiamo che il nostro lavoro sta facendo riflettere e la gente ci sta riconoscendo, anche se è chiaro che noi siamo un collettivo ambientale volontario. L'anno scorso è stata tanta la visibilità che abbiamo avuto con Dos Ovejas che la gente ha iniziato a chiamarci e chiederci di organizzare cose. Lo che nos satisface perché sappiamo che il nostro lavoro sta rebotando e la gente nos sta conoscendo. La gente spesso pensava che Dos Ovejas era una ONG, però in realtà Dos Ovejas è un'organizzazione di volontariato che funziona con risorse proprie. Ancora non abbiamo un finanziamento esterno che ci permetta di sviluppare progetti, però stiamo crescendo. L'anno scorso, visto che la gente ha iniziato a sollecitarlo, abbiamo iniziato a fare campagne di pulizia del fiume e di altri spazi e cose del genere. Molta gente ha la buona volontà di fare queste cose, però poi si disinteressa. Ti dicono, facciamo una campagna di riforestazione. E qual è la controparte? Perché tutti devono ottenere qualcosa da questa attività e allora la gente si disinteressa e ti dicono, fallo tu. L'anno scorso abbiamo riforestato con quasi 1000 alberi, però la cosa che cerchiamo prima di tutto è la sostenibilità. Il tema della riforestazione si sviluppa soprattutto nelle comunità contadine. Cerchiamo di far sì che i contadini siano coinvolti sia nel processo di riforestazione che nella sostenibilità del nostro lavoro. Perché non è semplicemente andare a piantare un albero. Quest'anno, in febbraio, siamo tornati nella zona che avevamo riforestato per dare un mantenimento agli alberi. L'unica cosa che chiediamo è che nasca un po' più di coscienza ambientale nella nostra città. Porque no se trata de ir y plantar un árbol. Este año, en febrero, regresamos a la zona para darle el mantenimiento a los arbolitos. Y bueno, lo único que pedimos es que surja un poquito más de conciencia ambiental en nuestra ciudad. Entonces, a nivel práctico... Quindi, praticamente, che attività realizza Dos Ovejas e di cosa si occupa in questo momento? Gracias, sí. Bueno, debo indicar que el tema fuerte de Dos Ovejas es el tema de los residuos sólidos en el ámbito municipal. Il tema forte di Dos Ovejas è quello dei residui solidi in ambito municipale. In ogni caso portiamo avanti altre attività ambientali, le enumero. Lavoriamo sulla sensibilizzazione e consapevolezza per quel che riguarda il tema dei residui solidi e l'accumulazione di questi nelle residenze. Adesso la città di Cuzco ha più di 400.000 abitanti e non abbiamo una discarica. Abbiamo solo una zona di rifiuti controllata che ha già più di 20 anni e sta collassando. Le autorità hanno indicato che questa zona ha una vita utile fino ad agosto di quest'anno. Già in gennaio i contadini della zona hanno alzato le loro voci in protesta perché i liquidi prodotti dai residui stanno arrivando al bacino del fiume, alle falde acquifere, ai corsi d'acqua sotterranei, infine ai loro stessi terreni coltivati. C'è una proliferazione di cani randagi rabbiosi, l'odore è insopportabile. Insomma, non c'è una qualità di vita adeguata per le persone che vivono in questa zona e quest'anno hanno manifestato la loro protesta giustamente. La protesta è durata una settimana. A me sarebbe piaciuto che questa protesta dei fratelli contadini della zona di Akira durasse almeno un mese, perché la popolazione di Cuzco sappia dove finiscono i residui da essa prodotti e perché sappiano come vive questa gente. Perché se vai a chiedere alla gente dove finisce la sua spazzatura, non ne ha idea. Per questo io avrei voluto che la spazzatura si accumulasse nelle strade, anche se la gente dice che sarebbe un vettore di malattie, ed è certo. Però dov'è la responsabilità dei produttori di residui solidi? Però dove sta tua responsabilità come generatore di residui solidi? Bueno, por una parte, Dos Ovejas se dedica al tema de residuos sólidos, por otra parte también nos dedicamos a... Y en los residuos sólidos ecco, da una parte Dos Ovejas si dedica al tema dei residui solidi. Poi stiamo facendo una campagna sulla raccolta degli ecomattoni. Abbiamo installato il primo centro di raccolta di ecomattoni della città. Si tratta di un'occupazione difficile, un lavoro lungo che necessita di essere continuamente rafforzato per generare coscienza nelle persone. Oltre a questo, lavoriamo sulla raccolta della plastica, monouso per scambiarla con materiale ortopedico e questo in collaborazione con una ONG di Lima. Oltre ai residui solidi, il punto forte di Dos Ovejas è il tema della riforestazione. C'è in programma di fare alla fine dell'anno, con il periodo delle piogge, una riforestazione nella zona della Valle Sacra degli Incas. In realtà quest'anno abbiamo ricevuto varie richieste di riforestazione, abbiamo l'appoggio di molte persone che vogliono donare alberi e dobbiamo valutare la situazione. Oltre a questo, sempre per quel che riguarda il tema dei residui solidi, stiamo cercando un sito dove immagazzinare questi ecomattoni. Abbiamo già una prima proposta che consiste nella costruzione di una compostiera per la trasformazione di residui solidi organici. E poi organizziamo visite guidate per i bambini che ricevono un rafforzo scolastico nella Valle Sacra. Inoltre facciamo campagne di sensibilizzazione nelle fiere con gli imprenditori. Questo mese c'è la Disco Sopa, non so se sapete cos'è. Si tratta di un evento internazionale in cui si cerca di riscattare gli alimenti che stanno per scadere per trasformarli in cibo e distribuirla alla gente che ne ha bisogno. Spesso vediamo nei supermercati che un frutto ha un punto nero e visto che c'è il punto nero si butta il frutto, o un pomodoro un po' giallo si butta. Sappiamo che la crisi alimentare e di povertà, c'è tanta gente povera che non ha di che nutrirsi. E si risolverebbe se la maggior parte di noi acquisisse coscienza e non si gettassero in questa maniera gli alimenti. Quindi si può dare un secondo uso ai residui organici. Poi, sempre collegato al tema dei residui solidi, stiamo organizzando plogging. Il plogging è un'attività sportiva consistente nell'unione di corsa, raccolta e raccolta rifiuti. E durante le feste di Cuzco vogliamo fare una campagna di raccolta di rifiuti correndo e raccogliendo spazzatura sul bacino di un fiume. E non abbiamo un piano operativo strutturato, piuttosto abbiamo una serie di attività definite per ogni mese. La cosa interessante è che ogni mese ci sono nuove attività, perché la gente ci conosce già, ci cerca per appoggiarci e così il tutto è più interattivo e possiamo interagire con la gente e nascono storie interessanti e belle. Bonito, tenemos bonitas historias. Sì. Come si organizza e come si ramifica l'organizzazione a livello locale e nazionale? Ya, gracias. Sí, como les comenté, Dos Ovejas nació en Lima. De hecho, nosotros ya teníamos algo estructurado en Lima, pero por el tema de la pandemia, pues se desarticuló. Come già detto, Dos Ovejas è nata a Lima. Di fatto, noi avevamo già un qualcosa di strutturato a Lima, però si è disarticolato a causa della pandemia. Abbiamo continuato poi ad articolarci perché ci interessa il tema delle spiagge, delle lagune, della vita marina. Siamo convinti di poter apportare molto in questo senso. Ci sono già molte persone che conoscono Dos Ovejas e che stanno aspettando che possiamo andare lì a sviluppare questi temi. L'organizzazione di Dos Ovejas si basa in un organigramma municipale. Abbiamo il vertice, che sarei io, che sono la fondatrice e direttrice. Poi c'è una coordinatrice generale, una studente di ingegneria ambientale dell'università. Ci sono poi 4 vice coordinatori, la vice coordinatrice delle campagne, quello di educazione ambientale, una di logistica e infine quello di alleanze e opportunità orientato all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Abbiamo anche gli assessori, quei ragazzi che lavorano a stretto contatto con noi sul tema del cambio climatico, e c'è un'assessora che è disegnatrice di moda per il tema della moda sostenibile. Quest'anno vogliamo sviluppare un'idea un po' folle. Speriamo di poter, ci piacerebbe creare il nostro primo tappeto verde per mostrare il tema del fast fashion e della moda sostenibile. Si tratta di un tema molto interessante, vorrei farlo qui, nello spazio dove ci troviamo. Mi immagino un tappeto come quello degli Oscar, però verde, e che tutti gli invitati passino e dicano: guarda, questo vestito ha 20 anni. E siccome era un po' vecchio, l'ho fatto sistemare, l'ho un po' modificato e attualizzato. Queste scarpe ce l'ho da 10 anni, le ho pulite e sono ancora buone, le sto riutilizzando. O questo maglione l'ho comprato in seconda mano, l'ho pulito e lo sto utilizzando. E pensiamo di contattare con l'aiuto della nostra disegnatrice altri 5 disegnatori che possano sistemare articoli di seconda mano per attualizzarle e poi per inviare le autorità perché possano vedere se il fast fashion affronta una problematica attuale per il tema dell'acqua del deserto di Atacama, senza andare troppo lontano. Conoscete la problematica di Atacama? Visto che siete un pubblico italiano, vi spiego. In Cile Si fanno sbarcare gli articoli di seconda mano che vengono dall'Europa e dagli Stati Uniti e tutti i vestiti che non si riescono a vendere vanno a finire nel deserto di Atacama. Lì puoi trovare vestiti con l'etichetta, con il prezzo. Molti dei vestiti sono inquinanti, di cotone, poliestere, mescolati con altre fibre. E il processo di biodegradazione dura migliaia e migliaia d'anni. Questo è un gran problema. Sappiamo quali sono le grandi imprese che si dedicano alla produzione di questi articoli di fast fashion, come H&M, Mango, Forever 21, Zara e molte altre imprese che non hanno una produzione sostenibile. Abbiamo visto documentari di youtuber che andavano in Bangladesh in cui si evidenzia come la produzione di un jeans richiede litri e litri di acqua, acqua che poi si getta nei fiumi di queste zone dell'Asia con lo sfruttamento di donne e bambini. Quindi si tratta di un tema trasversale, socioambientale ed economico. Y bueno, acá en Latinoamérica nos parece pues fabuloso comprar esta ropa porque nos venden un escaparate fantástico con luces, con uno super. Qui in America Latina ci sembra favoloso comprare questi prodotti perché ci vendono una vetrina fantastica con luci, con super offerte per prodotti di marca, però non abbiamo coscienza in fondo di ciò che stiamo facendo. Ciò che è economico costa caro. Quindi ci piacerebbe fare questo evento, speriamo di poterlo fare, sarebbe grandioso. Ecco, queste sono più o meno le ramificazioni di Dos Ovejas. Vogliamo fare un'investigazione sul volontariato ambientale nella zona di Megantoni, la selva di Cuzco, una zona molto lontana. Bisogna viaggiare tipo 24 ore in barca, in traghetto. C'è una volontaria di lì della zona che partecipa in modo virtuale, però vogliamo fare un'investigazione per poter partecipare a un concorso ambientale che lancia il ministro dell'ambiente Antonio Brakek e vogliamo partecipare con questo studio. Speriamo poter ottenere qualcosa. Grazie per averci parlato del fast fashion, che è una problematica che si discute attualmente anche in Europa tra i gruppi ambientalisti. Oltre al fast fashion, quali sono, a suo modo di vedere, le altre lotte trasversali a livello internazionale più importanti in questo momento storico? Internazionali a livello mondiale, più importante in questo momento storico. Sí, es una pregunta muy, muy amplia. Bueno, definitivamente una de las luchas más importantes como activista ambiental es el tema del cambio climático. Si tratta di una domanda molto, molto ampia. Bene, una delle lotte più importanti in quanto attivista ambientale è il tema del cambio climatico. La perdita di biodiversità, perché il Perù è un paese iperdiverso. I paesi iperdiversi sono i più vulnerabili perché ci sono dislocamenti delle nostre coltivazioni, delle nostre specie, il cambio climatico è relazionato al sorgere di nuove pandemie. Quindi credo che questa sia una lotta in comune con altre organizzazioni a livello internazionale. Anche il tema della raccolta dei rifiuti solidi ha molto a che fare con il cambiamento climatico, perché senza un'adeguata raccolta dei rifiuti solidi si produce metano, che è un gas di effetto serra. Allora, riassumendo, credo che la cosa più importante adesso sia lottare contro il cambio climatico dalla posizione che ognuno ricopre. E in ogni modo, dobbiamo avere come base in questa lotta gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Li teniamo sempre in conto. La vita sottomarina, l'ecosistema terrestre, alleanze ed opportunità, città sostenibili, fame zero. In realtà tutto si articola, perché se noi parliamo di consapevolezza e sensibilizzazione, dobbiamo parlare di educazione ambientale e qui non parliamo solo di ambiente, di residui, di spazzatura, ma dobbiamo parlare anche di economia, di società, della gestione del rischio di disastri. A Cuzco c'è un tema molto importante, il tema della pioggia. Le case non sono adeguatamente posizionate per affrontare le stagioni piovose e c'è il tema della cattiva gestione dei residui solidi e questo fa sì che la proprietà delle persone sia vulnerabile, che la gente stessa si trovi in uno stato di vulnerabilità. Insomma, tutto è trasversale, noi al nostro piccolo spazio ambientale facciamo quello che possiamo. Cerchiamo sempre di organizzarci con altre organizzazioni con il fine di arrivare a più persone. Dos Ovejas si relaciona con la Pachamama. Come sapete, la Pachamama nella cosmovisione andina è la madre terra, che ci offre tutto senza chiederci niente in cambio. Abbiamo diversità paesaggistica, aria, acqua. Speriamo che nel 2050 non ci facciano pagare l'acqua. Insomma, l'ispirazione di Dos Ovejas è la Pachamama. È bello che oggi, il giorno di questa intervista, sia il giorno della Madre Terra. Oggi, 22 di aprile, è il giorno della Madre Terra, della nostra madre. E questo fa sì che io sia una voce. Sono una figlia della terra che sta alzando la sua voce per difenderla. Hace de que yo sea una voz. Soy una hija de la tierra que está alzando su voz para defenderla. Sí, yo soy una hija de la tierra. Stiamo giungendo al termine di questa intervista. Per concludere, le piacerebbe aggiungere qualcos'altro? Otra vez gracias a Radio Onda Durto. Sé que esto está pues enfocado en un público selecto, ¿no? Sì, un'altra volta grazie. Grazie a Radio Onda Durto. So che questo programma è pensato per un pubblico esclusivo. Dalla mia posizione di cittadina del Perù, di un paese latinoamericano in via di sviluppo, la verità è che ci piacerebbe raggiungere più persone e arrivare ad avere il nostro piano di riciclaggio per il tema della plastica nelle nostre città. Sappiamo anche che quella del riciclaggio non è la soluzione, però lì si lavora il tema sociale ed economico, il tema del lavoro, delle persone con scarse risorse che possono realizzare il lavoro di riciclaggio. Il riciclaggio non è la soluzione. La soluzione sarebbe una presa di coscienza e la minimalizzazione della produzione dei residui, però credo che qualcosa possiamo fare. Nel terzo bollettino informativo dell'ONU hanno evidenziato la presenza di microplastiche addirittura nel sangue delle persone. L'orologio climatico ha già iniziato a girare. Per il 2050 non ci sono buone aspettative. Forse noi come persone dovremmo rivedere le cose. Credo che dovremmo dare un altro nome ai ricorsi naturali, perché di fatto questi sono finiti e noi facciamo un uso e un abuso delle risorse senza pensare alle conseguenze. Quindi forse sarebbe utile fare una revisione di cosa sono le risorse naturali e generare più consapevolezza. Non sarò mai stanca di dirlo, generare consapevolezza in modo articolato fra tutti, perché possiamo infine salvarci. Ecco, io credo che questo è tutto, e se qualcuno volesse contattarmi, cercate la Dos Ovejas. Y bueno, yo creo que eso sería, si es que alguien quiere contactarnos, búscame. Nada más. Avete ascoltato l'intervista a Dos Ovejas, registrata ad aprile a Cusco, Perù. Ne approfittiamo per ringraziare Carmen Cecilia Gil Cuba, fondatrice del collettivo ambientale Dos Ovejas. Un saluto speciale alla doppiatrice di questa intervista, Daniela Dello Russo, per averci prestato la sua voce. Dopo un po' di musica con Va Chicks, Io non chiero fama, a breve la rubrica di Mirko, che questa settimana ci racconterà della scrittrice Armonia Somers. Buon ascolto. Estoy madurando, me duelen los huesos. Ya no quiero plata, ahora quiero besos. Quiero a Tommy loco, libre de ser preso. Si hay algo muy malo, son todos los excesos. Yo no quiero fama, yo no quiero drama. Quiero levantarme 12:30 de la cama. Yo no quiero fans, yo quiero a mi mamá. Quiero estar tranquila, quiero estar bien flama. Que mansiones grandes, que la ropa cara. El alma vacía, tengo sangre y mara. Spazio estate. E spazio estate. Radio, radio, onda d'urto. Radio, radio, onda d'urto. Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Oggi parliamo di Armonia Somers, pedagoga, educatrice e scrittore di culto. Uruguaia, Armonia è considerata tra quegli scrittori strani, perché difficilmente classificabili in un gruppo o in una scuola letteraria. Nei suoi testi si confondono l'erotico con il terribile, il realismo con il fantastico, il femminismo con l'angoscia metafisica. Armonia Somers era ed è tuttora una scrittrice di culto, una scrittrice di pochi, di catecumeni, di critici, una scrittrice di scrittori. Una strana, una parola d'ordine per chi crede che la tradizione dello strano, inaugurata da L'Autre Monde, sia la vera linea invisibile della letteratura uruguaia. La sua opera, difficile, morbosa, perversa, era estranea alla cronaca, sfidante della ragione, irriducibile alla lucidità, abiurante del realismo. Ha evitato i successi democratizzanti per attirare, invece, come una calamita, la setta, gli altezzosi cercatori dello strano e dell'eccezionale. Sui dettagli esatti della vita dell'autrice sono state create diverse leggende. Durante la sua vita, lei stessa ha contribuito alla loro creazione e diffusione. Così, ad esempio, in varie storie letterarie ed enciclopedie si trovano date diverse per la sua nascita, che vanno dal 1914 al 1930. Allo stesso modo, lo pseudonimo scelto, Armonia Somers, è dovuto, probabilmente, al desiderio, comprensibile nel contesto della società puritana dell'epoca, di nascondere, almeno inizialmente, la vera identità della donna che, nel 1950, pubblicò un romanzo erotico, La Mujer Desnuda, La Donna Nuda. Poi, con un pretesto, andai in camera mia. Mi spogliai per esplorarmi e vedere che tutto fosse ancora in ordine, ma in un ordine insignificante, perché faceva male lo stesso. La vita fa male solo perché sì, e quel dolore non ci dà più diritti di quanti ne abbia un povero diavolo senza problemi, e di quanti ne avrebbe anche lui. Da La Mujer Desnuda. Armonia è nata nell'anno della Grande Guerra. È nata a Pando il 7 ottobre 1914. I suoi genitori, Pedro Laurindo Echapare e Maria Filomena Losino, non erano sposati quando sono nate le figlie. Forse non si sono mai sposati. Il padre era anarchico. Nel 1914, se non c'era matrimonio, i figli venivano registrati come illegittimi, anche se il padre li riconosceva. Così, dopo Armonia, nel 1916 nacque Nelida Aurora e nel 1917 Elida Alba. La madre, Maria Filomena, era molto giovane quando nacque la sua prima figlia. Aveva 19 anni. Armonia viene accettata nella scuola pubblica di un insegnante spagnolo, Don Lucas, come unica del suo sesso. Nella biblioteca del padre trova autori che saranno decisivi per lei in seguito, come Piotr Kropotkin, Giacomo Leopardi, Charles Darwin, Dante Alighieri, Edmund Spencer e altri. Nel 1927 Armonia termina gli studi primari e si iscrive alla Scuola Normale di Montevideo, che all'epoca era l'unica possibilità per una donna di ottenere un diploma superiore. Terminati gli studi nel 1933, inizia la sua carriera di insegnante e pedagoga. Insegna in diverse scuole e conosce così i problemi di diversi ambienti sociali. Queste esperienze la spingono a dedicare le sue pubblicazioni come educatrice a problemi come la delinquenza giovanile, l'antisocialidad juvenil en el Uruguay del 1958. Altre pubblicazioni di questo tipo sono, ad esempio, Educación de la adolescencia e l'adolescente della novella Il suo valor de testimonio e Anne Sullivan Macy, La forja en noche plena. Nel 1950 è stata inviata come delegata ufficiale della Biblioteca e del Museo Pedagogico dell'Uruguay al Seminario Interamericano sull'Educazione Primaria presso l'Organizzazione degli Stati Americani e l'UNESCO. Nel 1960 viene invitata dal governo francese a recarsi in Francia per studiare l'organizzazione e il funzionamento dei centri di rieducazione e delle istituzioni penitenziarie. Riceve un invito speciale dal segretario del Secondo Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti, tenutesi a Londra. Nel 1961 è stata invitata dal Servizio di Scambio Accademico della Repubblica Federale di Germania a Bonn, a recarsi in quel paese per svolgere gli studi della sua specialità. Nel 1962 rappresenta Montevideo al Seminario sull'Educazione allo Sviluppo e al Progresso Sociale presso le Nazioni Unite. Viene nominata direttrice della Biblioteca e del Museo Pedagogico dell'Uruguay. Dal 1962 al 1971 è stata direttrice del Centro Nacional de Documentación Educacional. Nel 64 ha ricevuto una borsa di studio dell'UNESCO per studiare la documentazione educativa a Parigi, Digione, Ginevra e Madrid. È stata redattrice del Bulletin Informativo della Biblioteca, i Museos Pedagógicos, Documentos, Anales e Enciclopedia de Educación, dal 1967 al 71. Nel 1971, all'età di 57 anni, si è ritirata dalle sue funzioni ufficiali e da allora si è concentrata sulla sua attività di scrittrice. Forse a causa dell'incompatibilità tra una vita molto attiva nella carriera professionale e le sue ambizioni letterarie, la sua opera cresce lentamente, con lunghe pause e periodi di silenzio, uno tra il 1953 e il 63, un altro tra il 1969 e il 79. Dopo l'esordio scandaloso con il romanzo breve erotico La mujer desnuda del 50, nel 1953 seguirono i racconti di El derrumbamiento. Quando portò il manoscritto in tipografia, conobbe il loro direttore, Rodolfo Enestrosa, che avrebbe sposato 2 anni dopo. Nonostante il secondo scandalo suscitato dal racconto che dà il titolo al volume, nel 1953 le viene assegnato il primo premio di narrativa del Ministero dell'Istruzione Pubblica. Ma critici rispettabili come Emil Rodriguez Monegal e Mario Benedetti, in quel periodo segnato dal realismo sociale e dal criollismo, che consideravano irrilevante questo tipo di letteratura fantastica o ermetica, trovarono molti difetti nell'opera, che oggi potrebbero essere interpretati più come sintomi di una scrittura femminile e non gerarchica. 10 anni dopo, quando i parametri della letteratura erano cambiati, Benedetti osserva: «È ora possibile vedere che i racconti di quel libro del 1953, pur non essendo pienamente realizzati come letteratura, non erano iscritti in una posa letteraria, ma in una autentica angoscia metafisica». Sotto di lui ci sono anche piedi di donna che sfiorano il suo sangue con un formicolio piumoso, ma sa che poi arriva la gamba e infine tutto il pericoloso fardello che si porta dietro, forse alla ricerca del cavatappi per svuotare le viscere, per fare quello che Rose ha fatto tante volte prima. E non vuole, proprio in un giorno di angoli di strada, di piedi nudi, di ritorni dell'adolescenza, con il fantasma della sua facoltà frustrata, non vuole pensare che le donne abbiano il compito brutalmente solitario di strappare pezzi che non appartengono più al loro corpo per gettarli via come semplici formazioni parassitarie. E i loro piedi ben calzati iniziano a fuggire da quelli femminili, come un brutto tipo di rovo spinoso a livello del suolo. Anche i maschi, naturalmente, non lo attirano. Non devono attirarlo. Che cos'è dunque l'umanità per un prigioniero in strada? Da La Rébellion de la Flore. Nel 1965, in occasione della pubblicazione del suo secondo romanzo, De Miedo en Miedo, inaugurò Somersville, la sua casa nella località balneare di Pinamar, un piccolo castello che sorge come un miracolo a 30 km da Montevideo. Quando non è lì, vive nel Palacio Salvo, al 16° piano di un grattacielo di Montevideo. Nel 1969, Armonia Somers pubblica un altro romanzo breve, Un ritratto para Dickens, per il quale riceve il premio Intendencia Municipal de Montevideo, ma verso la fine di quell'anno si ammala gravemente di una malattia rara, il chilotorace, da cui la guarigione fu lenta e dolorosa. Da questa esperienza, in un lungo processo di elaborazione creativa, tra il 1972 e il 75, nasce il suo monumentale romanzo Solo los elefantes encuentran mandragora. All'inizio non voleva che andasse in stampa, perché voleva che fosse la sua eredità letteraria dopo la morte. Anche l'inizio della dittatura militare nel 1973 ha avuto un certo ruolo nel rinviare la pubblicazione del romanzo, il cui titolo doveva essere Chilotorace a Montevideo. Un'allusione alla situazione precaria della cultura e degli scrittori, molti dei quali dovettero andare in esilio in quel periodo. Negli anni 70 inizia la ricezione letteraria internazionale dell'opera di Armonia Somers, spesso associata a quella del conte di Lautremont, poeta uruguaio della metà del XIX secolo, considerato a sua volta uno scrittore strano. Seguirono diverse traduzioni in inglese, francese e tedesco e nel 78 Somers pubblicò un volume di racconti dal titolo Muerte por Alacrán, che conteneva una serie di testi nuovi e rielaborati. Questa raccolta gli è valsa recensioni molto positive. Mario Benedetti dice, ad esempio, «Muerte por Alacrán somministra la sua dose di terrore con notevole ritmo e precisione. È un titolo che non può mancare in nessuna antologia di racconti uruguagi». Ángel Rama osserva addirittura «L'orrore senza soluzione di continuità di Muerte por Alacrán raggiunge una tensione volontaria di orrore e crudeltà che lo stesso Quiroga non era in grado di sostenere con simile durezza». Ogni luogo del mondo ha eventi sinistri nella sua storia. O se non li ha, se non li ha subiti, si aspettano fatali. Il disastro di quell'uragano che ha devastato tutto e ha dimostrato che sì, è vero che qualcosa o qualcuno guarda verso un punto e dice «Questa cima nera non ti toccherà oggi, piccola isola paradisiaca». Il disastro del vulcano, dell'alluvione, del virus, che porterà via per sempre la spontaneità dell'amore, quello dell'aereo che precipita, quello della guerra gestita come la lunga gestazione di un mostro, quello della pace armata fino ai denti in attesa del parto. Da El Hacedor de Girasoles. Nel 1982 il marito, Rodolfo Enestrosa, le fece una sorta di regalo d'addio quando, due giorni prima della sua morte, per Natale, le regalò un'edizione di 300 copie del libro Triptico Darwiniano. L'incontro con un giovane uomo che piange su una tomba del cimitero nel giorno della festa della mamma è l'occasione per scrivere Viaje al corazón del día, una storia d'amore romantico-storica ambientata durante la guerra franco-prussiana del 1870. Nel 1986 il comune di Montevideo le ha assegnato il primo premio del concorso letterario municipale per il libro Solo los elefantes encuentran mandragora e ha ricevuto il premio letterario annuale del Ministero dell'Educazione e della Cultura uruguayo per il libro Viaje al corazón del día. Viene anche organizzato un grande tributo per lei presso la Biblioteca Nazionale di Montevideo, uno degli ultimi eventi in cui viene vista in pubblico. Nel 1988 è invitata alla 14ª Fiera Internazionale del Libro di Buenos Aires, dove partecipa con altri autori, come José Donoso, Arturo Uslar Pietri, Jorge Amado, eccetera, a un forum intitolato La novela e las puertas del siglo XXI, il romanzo alle porte del XXI secolo. Nello stesso anno viene pubblicata l'antologia La rebellion de la flor, selezionata dall'autrice stessa, in cui Armonia Somers racconta anche qualcosa sullo sfondo reale di alcuni dei suoi racconti. Nel 1994, all'età di quasi 80 anni, muore a Montevideo e le sue spoglie riposano nel cimitero britannico. Il suo lascito postumo sarà il volume El Hacedor de Girasoles, un omaggio a Jorge Luis Borges, Hieronymus Bosch, Virginia Woolf e Vincent van Gogh. In essa l'autrice scrive: «Qualche mattina presto devo essermi alzata, in pieno giorno, è impossibile, per dirvi che parto, ma resto, non smettete di amarmi, questo è ciò che conta». Non esistono attualmente edizioni italiane di opere di Armonia Somers. Nella speranza che qualche traduttore ed editore si interessino per sanare questa mancanza, attendiamo. sesso cileno affisso sul muro. Promette spettacolo, un colpo sicuro. La musica andina che noi è mortale, sono più di tre anni che si ripete sempre uguale. Mentre il cucciolo Alfredo canta in modo diverso la canzone senza note di uno che si è perso. Finisce così la nona, nonché penultima puntata di Spazio Estate Viaggi. Per riascoltare le precedenti puntate, surfate all'indirizzo internet www.radioondadurto.org e su mixcloud.com/donpairs. Continuate anche a scriverci e a mandarci i vostri messaggini e anche vocali all'indirizzo Facebook e Instagram donpairs.it. donpairs.it. In questa puntata abbiamo ospitato Carmen Cecilia Gil Cuba del collettivo ambientalista Dos Ovejas di Cusco, Perù. La salutiamo. Mirko, autore della rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina, vi saluta e vi dà appuntamento alla settimana prossima con l'ultima puntata di Spazio Estate Viaggi. Io sono Giacomo, vi ho raccontato e finirò di raccontarvi del viaggio in bici. A risentirci a presto sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero. Fenómeno el amigo. No, este es hermano. Con corazón canta aparte, eh. Ídolo, eh. Fenómeno. La afinó, ¿no? La afinó en dos minutos. Está bien, está bien. Está perfecto. Está perfecto. Con oído. Sí, sí, sí. ¿El italiano o cuál es? El mío. Ah, la torre inmóvil en cualquier momento mutua de asunto del espacio. No te entendí. No. La torre inmóvil en cualquier momento mutua de asunto del espacio. Ah, no te entendí. Italiano no entiendo. ¿Es un italiano o francés? No, no, no, italiano. Todo italiano. Italiano, todo italiano. La torre inmóvil en cualquier momento mutua de asunto del espacio. La mujer es móvil como la pluma en el viento, cambia de tono y de pensamiento. Así, con la así. Eso sí. Recién cayó, fijo. Exacto. Francés, inglés, coreano. No, que es coreano, ya. Quechua. Aymara. Aymara también. Te voy a tocar un temita de Neymar. ¿Lo puedo grabar? ¿Así lo guardo de recuerdo? A ver, amigo. Estamos acá, mira. ¿Dónde te quedaste ahora? No, lo guardo de recuerdo. Nunca escuché a alguien cantar de Neymar. Padre Goldila Capuniningua, Kupai Chaimanka Capuniningua, Ani Puni Uyut Kaniti, Ukamampi Bunataka. Kupati kwa lila kapu niniwa Kupai chenga paka puniniwa Kani upuni uyut kaniti Kukama pibu na taha Nila kita puni uni kasta Kajanya kiumu na zidu Itawa izara wangewa Tatitu gagaru sarike Kani puni uyut kaniti Kukama pibu na taha Era una flor en mi vida, era la luz de mi alma, era la luz de mi vida, yo jamás vi una taja. En la quita pone un hijasta, a chañan que un una situ, y que huaita la guanquewa, tatituga caro serge, a ni un puño y un caniti. Kamapi munataha Aymara. Aymara. Buenas noches. ¿Todo bien? Menos, ¿cómo le va, Rodrigo? Giacomo, encantado. Buen tipo. Giacomo, la espinaca, ya como los perlepinis. Sí, perlepinis. Bueno, todo bien en la pasta. Sí. Aymara, la lengua aymara, ¿de qué zona es exactamente? De Bolivia. Autóctona de Bolivia. La, sí. Ahí nace la aymara y el quechua. Y el quechua también. Este está la luz. Saca esa pared. Tres. Así con tres. Así con tres. Con eso busca. Que esta samita la he escuchado, si vos venís de Buenos Aires, es de Tomalipán. Del cerro vengo bajando, el camino y piedra, traigo enredada en el alma. Atahualpa Yupanqui, ¿verdad? La tocaba también. La tocaba también, sí.